Allora, io direi di cominciare e credo che sia una buona occasione, nel senso che tra l'altro a questo tavolo sono seduti i curatori di due numeri speciali di due riviste che sono Politica del Diritto e Out Out, che sono per Politica del Diritto Francesca Moretti e Carlo Formenti per Out Out, che io credo siano, come dire, un bel pacchetto, non voglio esagerare, ma un bel pacchetto di materiali per una discussione che non sia ripetitiva di, diciamolo, di tanti luoghi comuni che ci accompagnano. Io non ho molte cose da dire, anche perché quello che, il poco che avevo da dire l'ho scritto in tutte e due le parti con qualche variazione e va bene. E poi io per primo sono molto interessata a sentire le opinioni in primo luogo di chi non ha scritto su questi due numeri, su questi due numeri speciali, e poi sentiamo i curatori, e poi se mi viene in mente qualche cosa alla fine aggiungerò pure io, mi sembra la cosa migliore. Quindi che facciamo? Seguiamo l'ordine alfabetico e diamo subito la parola a Juan Carlos? Sì, grazie. Io vi ringrazio molto, tra l'altro ci sono quattro non romani che sono venuti molto generosamente per questa cosa, e allora il ringraziamento è molto particolare, va bene? Grazie. Ah, certo, Juan Carlos De Martin, che si autopresenta, poi il professore al Politecnico di Torino, presidente del centro Nexa, è giusto, che è oggi credo il luogo dove si riflette meglio sull'insieme delle questioni, soprattutto nella direzione dell'impatto sociale, perché c'è veramente molto, e quindi io gli sono sempre molto grato, perché poi ricevo da lui suggestioni preziose e poi loro fanno questi dibattiti ai quali io mi collego tranquillamente, me li seguo, e che è un lavoro preziosissimo. Quindi questo è il vero ringraziamento, poi quello di essere venuto certamente. Allora. Grazie, e in realtà sono io che vi ringrazio per questa opportunità, sono molto lieto di essere qui a discutere questi due bellissimi numeri speciali, tanto più in presenza dei rispettivi curatori. Dico due parole, sono un docente al Politecnico di Torino, sono un ingegnere informatico che ha avuto l'avventura di incrociare sulla sua strada circa 8 anni fa giuristi, e in particolare Marco Ricolfi, che è un giurista esperto di proprietà intellettuale e di tecnologie digitali, col quale abbiamo iniziato un percorso che come prima tappa ha avuto Creative Commons, questa iniziativa che stiamo seguendo da allora per l'Italia, e poi successivamente una serie di iniziative che ci ha portate a creare in realtà una cosa molto più umile e più semplice di quella che ha descritto con troppa generosità Stefano Rodotà, cioè semplicemente un gruppo di ricerca come tanti altri. Beh, al Politecnico, che cerca di mettere insieme, oltre alle competenze tecnologiche che sono naturali in un Politecnico, anche quelle giuridiche, quindi tutto il mondo in realtà proveniente dall'Università di Torino legato a Marco Ricolfi, e un po' di aspetti economici che sono ancora la terza gamba un po' debole del nostro centro, ma che vorremmo rafforzare, quindi con questo approccio che è molto più in realtà, come capite, limitato che non internet e società, che è molto ampio, è più limitato alla legge, alla tecnologia e all'economia, e su questo cerchiamo di seguire alcuni filoni limitatamente alle nostre capacità e risorse. Ciò detto, vi ringrazio di essere stato invitato a parlare di questi due numeri. Ovviamente i due numeri complessivamente credo abbiano una ventina di contributi, quindi è impensabile dare una reazione onnicomprensiva, mi concentro soltanto su qualcosa in particolare, e per essere più precisi mi concentro soprattutto sugli interventi di uno dei nostri prestigiosi curatori, cioè quello di Carlo Formenti, che ho trovato particolarmente, come dire, mi dava particolarmente agio di commentare alcuni punti. Allora, leggendo i due contributi, che sono abbastanza simili dei due numeri di Carlo Formenti, che ovviamente conoscevo già da prima, avevo già letto in precedenza, ho notato soprattutto il fatto che Carlo Formenti sembra reagire in particolare, con particolare forza, quasi veemenza mi verrebbe da dire. Mi dice che ha appena scritto un nuovo libro che è più veemente di questo, non riesco a immaginare come possa esserlo, comunque con veemenza a quelli che No Limits Formenti No Limits con veemenza a quelli che a partire dagli anni 90 fino ad arrivare a oggi lui caratterizza come gli entusiasti, i naif, i non scientifici che parlano della rete. Alcuni nomi possono essere Clay Shirky, possono essere David Weinberger e altri, sono quasi tutti americani, Howard Rheingold, eccetera, che hanno avuto e tuttora hanno una grande visibilità, l'hanno avuta soprattutto a fine anni 90, inizio anni 2000, ma continuano a essere molto letti, che lui caratterizza appunto come un approccio entusiasta, ideologico, se non addirittura in malafede, sfacciatamente in malafede, relativamente a Internet e in particolare al Web 2.0, quindi all'Internet di questi ultimi 10 anni, che ha delle caratteristiche peculiari di accentramento, tra l'altro notato anche da un intervento in politica del diritto, il ritorno del mainframe. Quindi la reazione è a questo e lui reagisce cercando di analizzare criticamente e di smontare molte delle affermazioni che lui giudica spesso infondate di questo filone. Di questo filone noto che risparmia, giustamente, in questa categoria risparmia i pensatori più profondi come per Lawrence Lessig o Yochai Benkler, anche se Benkler in alcuni punti viene criticato su certi aspetti. Però nel fare questa opera, che è sempre benvenuta, di critica, di cercare di andare a vedere al di là delle affermazioni entusiaste, secondo me va troppo oltre, e spiego perché. Allora, innanzitutto osservo che la maggior parte di questi contributi sono americani. Gli americani sono una società particolare che Harold Bloom identificava tra le altre due caratteristiche. Uno, gli americani sono neoisti, sono amanti del nuovo per il nuovo. E questa è una caratteristica di quella società e quindi anche della cultura americana, il neoismo. E questo si salda con una tensione religiosa. Harold Bloom argomenta in The American Religion che la società americana è una delle più religiose in assoluto nel mondo occidentale, in particolare c'è una tendenza messianica e la tecnologia molto spesso si presta a dare argomenti di questa natura palingenetica, millenaria, di discontinuità profonda e così via, che si periodicamente ritornano. Questa è una connotazione della cultura americana, la conosciamo e conoscendola abbiamo anche gli strumenti critici per filtrarla, per darla, per sapere che è così, soprattutto quando ciò si salda a un banale e naturale desiderio di vendere il proprio libro o di vendere se stessi, che caratterizza forse alcuni di questi autori un pochino più interessati all'aspetto commerciale di autopromozione. Allora, ciò detto, quello che invece a me piace di questo filone, come David Weinberg è un giornalista, un blogger, non è un accademico, è il fatto che sottolineano con secondo me meritoriamente che cosa è cambiato rispetto a prima, e questo è meritorio perché troppo facilmente quando c'è una discontinuità tecnologica tendiamo a darla poi per scontato e a dimenticarci come certe cose fossero più difficili o addirittura impossibili in precedenza. Allora, ricordarcelo questo mi sembra importante. E la seconda caratteristica è il fatto che Internet, questa specifica tecnologia, non essendo ottimizzata per nulla, essendo una piattaforma generativa, come dice Zittrain, è particolarmente importante esplorare il potenziale, cosa potrebbe essere se. È valido per tutto, valeva per la radio, valeva per la televisione, ma per Internet è particolarmente importante proprio perché ha un potenziale così indeterminato. Allora, avere qualcuno che, sia pure in maniera entusiasta o critica, prova a ragionare cosa potrebbe essere se, secondo me è di valore, E da noi, nella nostra cultura, questo viene fatto estremamente poco, che cosa potrebbe essere sé, cosa che, come dirò poi più avanti, porta anche a un'assenza di progettualità. Se andiamo nel campo della policy, ragionare a cosa potrebbe essere sé in positivo e in negativo è essenziale per orientare un ragionamento di policy. Un ragionamento strategico, potremmo dire, e potremmo anche dire che invece proprio negli Stati Uniti un atteggiamento strategico nei confronti del web, nel bene e nel male, è stato molto più marcato da molto prima, proprio per questa tensione a cercare di immaginare cosa potrebbe essere. A questo gruppo d'autori prevalentemente americano reagisce un altro gruppo d'autori, non soltanto il nostro Carlo Formenti, ma anche Gert Loving e diversi altri, alcuni un buon numero riuniti soprattutto nel numero della rivista di Out dedicata al 2.0, che appunto reagiscono. A questi autori recentemente si sono aggiunti anche autori che hanno avuto in Italia una fortuna notevole in questi ultimi mesi, per esempio Nicolas Carr o Jerome Lanier, che hanno avuto le prime pagine di Repubblica, le prime pagine del Sole 24 Ore, il loro libro è stato tradotto istantaneamente, ci sono libri fondamentali sulla rete che non vengono mai tradotti, ma il loro libro un mese dopo era in tutte le librerie. Allora questo, quindi molta diversità all'interno di questo gruppo, c'è una reazione dicendo ma non è vero che internet è democratica, ma non è vero che internet, è tutta una serie di reazioni ad assiomi attribuiti al primo gruppo di autori. Allora, cosa possiamo fare, anche per non prendere io personalmente troppo tempo e magari fare un round di discussione? Vi dico, faccio due cose, prendo l'articolo di Carlo Formenti e faccio alcune osservazioni sul suo articolo e poi vi dico qual è la mia personale visione e che impronta anche il centro Nexa su internet e società. Allora, per quello che riguarda l'articolo di Carlo Formenti, quindi Sfera pubblica e nuovi media nel numero di politica del diritto, scelgo soltanto alcune cose, per esempio il fatto che ritorna spesso nella discussione pubblica italiana, che internet non sia democratica. Allora, bisogna intenderci su cosa si intende per un'affermazione di questo tipo. Si potrebbe benissimo dire sì, è vero, non è democratica, ma cosa intendiamo? Questo tavolo è democratico? Intendiamoci. Allora, si tende, anche Carlo lo fa, a dire alcuni studi, specialmente studi in realtà ormai vecchi e tra l'altro metodologicamente un po' dubbi come quelli di Barabasi, hanno dimostrato che su internet non è affatto vero che i siti siano orizzontali, cioè che tutti i siti ricevono la stessa attenzione. E devo dire che questo mi sembra un risultato quasi ovvio, tutti i libri mica ricevono tutta la stessa attenzione, è normale che si creino delle concentrazioni di attenzione, la cosa fondamentale è che queste concentrazioni non vengano indotte dalla struttura tecnica della rete o in altri modi. Fino a quando queste concentrazioni sono semplicemente il frutto di un effettivo interesse da parte degli autori, queste concentrazioni sono, a mio avviso, non problematiche. Bisogna preservare la possibilità di qualunque di emergere, ma non pretendere un'attenzione orizzontale che è impossibile, peraltro non c'è mai stata per i giornali, per qualunque altro mezzo di comunicazione della cultura preesistente. Altre affermazioni che trovo leggendo, non cita Cass Sunstein, però in qualche modo è come se implicitamente ne parlasse, quando dice che internet produce una balcanizzazione della discussione. Cass Sunstein, il grande costituzionalista americano, in Republic.com qualche anno fa diceva, in realtà palesava il timore che internet potesse indurre i vari gruppi, ognuno a parlare con se stesso. Essendo in declino, i grandi comunicatori generalisti, come la televisione generalista nazionale, i quotidiani nazionali e così via. Allora, questa era una paura di Sunstein, in parte sostenuta da alcuni studi, ma fino adesso né dimostrata e a men che meno l'effettivo impatto di questa balcanizzazione. Quindi invece Carlo Formenti lo dà come scontato, è così, vengono, si dice, non solo non vengono corretti, ma appaiono se possibile ulteriormente esasperati dalla rapida diffusione della comunicazione mediata dal computer, con particolare accelerazione col Web 2.0. Un paio di altre cose, il fatto che ci si fida del blogger più che del giornalista, non perché il primo sia più tendibile del secondo, ma perché uno di noi e ne conosciamo le emozioni, o almeno quelle che egli ci racconta. Ecco, questa enfasi sul fatto che il popolo della rete, come vogliamo chiamarlo, si fidi di più del blogger per una connessione emotiva, a parte che non conosco evidenze empiriche o indagini che lo sostengano questa affermazione, ma neanche lo riconosco a livello personale per quello che può valere. Cito un ultimo punto: le elite digitali che acquistano legittimità grazie all'acquisizione di un nuovo tipo di potere carismatico. Allora, di nuovo qua potrei forse chiedere a quale definizione di carisma fa riferimento Carlo Formenti, ma anche qui non riconosco il carisma come la base della dinamica delle elite digitali, almeno non in generale. Non voglio fare un'analisi riga per riga o pagina per pagina, volevo soltanto dare alcuni elementi che secondo me sono in parte non sostanziati empiricamente, vengono semplicemente enunciati, è così, e dall'altra comunque vanno al di là di quello che secondo me è una visione più aderente alla realtà di quello che sta capitando sulla rete. Finisco invece dando una parte, come dire, presentando la mia posizione, non semplicemente dicendo, facendo provare a dare qualche spunto reagendo agli scritti di Carlo Formenti. Quello che il Centro Nexa, ma non soltanto, ma il Berkman Center for Internet Society ad Harvard, ma anche altri autori come David Post, che tra l'altro sarà a Torino tra qualche giorno. David Post, un cyber scholar americano, ha scritto l'anno scorso un bellissimo libro, Alla ricerca dell'alce di Jefferson. L'alce di Jefferson quando era ambasciatore, Thomas Jefferson quando era ambasciatore a Parigi, si era fatto procurare negli Stati Uniti una grosso alce, se l'aveva fatto impagliare, l'aveva fatto portare a Parigi e l'aveva messo nell'atrio della sua casa parigina per far vedere a una determinata persona, a uno naturalista francese, che la sua teoria che gli animali nel nuovo mondo fossero tutti più piccoli di quelli presenti nel vecchio mondo era falsa. Lui concretamente ve la dimostrava dicendo: uno, è un alce, voi un alce non l'avete mai vista, e due, è molto grossa. Allora, con questo paradigma dell'alce di Moose, di Jefferson, David Post prova a mappare il nuovo mondo, il cyberspazio, così come Thomas Jefferson si procurava ossessivamente mappe della Virginia, del nuovo mondo. Cercare di descrivere l'esistente, attori, strutture, dinamiche, conseguenze, interazioni, effettive nuove capabilities. Avendo descritto, capire le leggi di questo spazio, perché è un nuovo spazio che ha delle leggi nuove. Perché, per esempio, perché un determinato link su Facebook ha successo e un altro no? Quali sono le leggi di questa diffusione? E ci sono interi settori di studi, in parte nell'informatica, informatica e sociologia, che stanno proprio studiando questo, quali sono le leggi con cui si propagano certe informazioni. Capire le determinanti di queste leggi, perché queste non sono leggi fisiche, queste sono leggi all'interno di una costruzione culturale prodotta da codice informatico. Quali sono le determinanti? Poi mappare il potenziale di questo spazio in tutte le direzioni, sperimentare praticamente determinati aspetti di questo potenziale. Il cyberspazio ha la caratteristica particolare che chiunque può andare a costruire qualcosa, quindi un centro come il Centro Nexa vorrebbe, se le risorse sono disponibili, anche provare a sperimentare, a costruire qualcosa, e poi identificare, questo è l'aspetto di policy, quali modifiche tecniche, economiche o normative potrebbero, e qua uso dei termini valutativi ovviamente, degradare, preservare, rafforzare questo spazio relativo potenziale. Questo è un po' la descrizione complessiva di quello che da un po' di tempo chiamiamo, ma adesso anche la Commissione Europea, Internet Science o Web Science, cioè mettere insieme diverse discipline, perché per rispondere a queste domande ci vogliono diverse competenze, per provare appunto a mappare le leggi, capire le determinanti e avere una visione di policy. Questo è quello che stiamo cercando a fare. Di fare. Grazie. Ok, grazie. Quindi complemento appena un attimo questa presentazione dicendo che mi occupo di Internet Governance ormai da qualcosa di più di 10 anni. Nasco come tecnico, ma poi mi sono convertito e sono quasi diventato un diplomatico, diciamo così. E appunto, come ricordava Stefano Rodotà, io appunto dal 99, quando è sorto ICANN, mi occupo di ICANN, che sarebbe quella struttura che gestisce gli indirizzi della rete internet, sia numerici che alfanumerici, e quindi è una parte, diciamo, del tema della governance. E poi invece ho seguito lo World Summit on Information Society e poi tutta l'organizzazione degli IGF che si sono succeduti e che quest'anno arrivano alla sesta edizione. Ultimamente sono anche stato sempre con questo cappello governativo coinvolto nell'organizzazione del G8 francese, che sarà alla fine di maggio e che tratterà dei temi dell'internet come uno dei temi chiave, insomma, ecco, durante il G8. E ci sarà anche l'organizzazione di un evento di outreach specifico. E sarà molto curioso vedere poi i francesi cosa vogliono fare, e chiaramente con però l'accordo degli altri sette, quindi insomma stiamo in una fase di insomma aggiustamento degli obiettivi. Vari articoli hanno scritto che c'è una paura che si voglia usare questa occasione in chiave di regolamentazione, cosa che i francesi negano assolutamente, almeno per ora, fin qui, e poi staremo a vedere. Poi, fra l'altro, io sono il chairman del chapter italiano della Internet Society, che è negli Stati Uniti, ma insomma è l'associazione che più o meno si occupa anche della gestione della rete e della produzione degli standard attraverso gli ETF, Internet Engineering Task Force. Ecco, ho ritenuto importante questo tipo di premessa perché i commenti che vado a fare su questo interessante libro che ho letto, diciamo, ci ho ritrovato un sacco di problematiche che poi nelle discussioni internazionali ritornano e ritornano sempre. Perché poi bisogna tener conto che, essendo l'internet assolutamente una realtà transnazionale, i problemi che poi riguardano casa nostra poi li ritroviamo più o meno tali e quali, più complicati, perché a questo punto ci sono conflitti di interessi fra legislazioni nazionali e necessità di collaborazione sui vari temi. E quindi diciamo questi temi trattati nel libro sono assolutamente, diciamo, attuali e fra l'altro io sono stato anche stamani un portatore, e lo esprimo anche qui, e chiaramente non vale forse per questi a questo tavolo, della assoluta necessità di una esposizione e discussione che avviene nei consessi internazionali, perché in questa maniera da una parte ci si confronta e quindi è importante vedere anche come certi problemi di policy vengono trattati nelle altre nazioni, e dall'altra ci si rende anche conto, in una realtà così complessa eccetera eccetera, quanto effettivamente possiamo influire qualora cerchiamo di farlo, ecco. Quindi da quello che dirò dopo tratto anche alcuni agganci seguendo i capitoli del libro. Il primo, che è l'articolo di Stefano sulla costituzione dell'internet, tra l'altro ne abbiamo trattato stamani anche alla Corte Costituzionale di Cassazione. E su vabbè, ora non so appunto se magistratura democratica come sia considerata. Vabbè. Lì si è parlato, diciamo, di come certe idee sono nate già subito dopo lo World Summit on Information Society, almeno tradotte su carta, dove fu proposto la costituzione dell'Internet Bill of Rights, che diciamo era un po' la premessa alla proposta che invece è stata fatta nell'ultimo IGF da parte di Stefano, di questo articolo o postilla aggiunta al 21 articolo della nostra Costituzione, in cui diciamo, viene riconosciuto come diritto dei cittadini quello di essere, diciamo, di avere la connessione all'internet universale. Chiaro che su questi argomenti poi si discute e si entra in dettagli, perché a un certo punto non basta semplicemente avere una connessione, ma bisogna porre attenzione anche sui problemi del digital divide, nel senso della cultura, dell'esperienza di diciamo usare determinati servizi, eccetera eccetera. Per assicurare una vera parità bisognerebbe fare un'azione non solo di collegare, ma poi anche di fare promozione, education in maniera continuativa, eccetera. E questo qui, fra l'altro, è uno dei temi che diciamo anche in ambito europeo, l'Unione Europea è da anni che parla di servizio universale, cioè che la connessione all'internet dovrebbe essere un servizio universale. E la Commissione Europea se ne preoccupa per, come attività anche di investimento, di soldi, cosa si deve fare perché questo sia reso possibile. Cioè non è che va troppo nelle elaborazioni di natura, diciamo, legalistica o cose del genere. Però una ancora, diciamo, precisi impegni e traduzione in termini pratici di cosa voglia effettivamente dire servizio universale non è stato deliberato fino in fondo. Però è un qualcosa di cui si ha una ben precisa cognizione. E al giorno d'oggi, insomma, gli utenti della rete hanno superato da poco nel mondo i 2 miliardi di persone, che vuol dire circa un terzo della popolazione globale, dove naturalmente le penetrazioni in Europa e in altri posti sono molto variate, insomma, si varia da paesi tipo l'Islanda, la Finlandia, che superano abbondantemente il 90% della popolazione. Noi siamo intorno al 58%, insomma una roba di questo genere, forse meno, 30 milioni mi sembra, quindi siamo al 51-52%, ecco, questa è la cosa così. E poi dietro a queste cose ci sono anche tutte le altre discussioni che vengono fatte sulla larga banda, per esempio, perché una cosa è permettere alle persone di collegarsi magari col vecchio modem attaccato al telefono, un'altra cosa invece è dare un accesso vero che permetta anche di scaricare dati, fare applicazioni che danno una completa, diciamo, possibilità di usare il mezzo internet. E quindi su questo io non vorrei dire di più, perché insomma altrimenti il discorso può diventare estremamente lungo. Dico questo, che stamani è stato ricordato come questo Internet Bill of Rights, che peraltro fu lanciato come Dynamic Coalition in occasione del primo IGF di Atene nel 2006, e fu supportata dal nostro governo e da ISOC Italia e fra i soci fondatori. Poi il nostro governo, diciamo, dopo la parentesi di Prodi, perché è stata quasi una parentesi, diciamo, ha discontinuato il supporto a questa iniziativa, e quindi diciamo Nell'ambito dell'IGF la Dynamic Coalition nel frattempo ha cambiato un po' natura, ha cambiato nome, si chiama Internet Rights and Principles, che ha scopi, obiettivi simili, ma ancora senza una chiara visione. Il problema reale è come cristallizzare, ecco, che cosa si vuole fare. È stato citato il governo del Brasile che, prendendo le idee nostre, diciamo così, a un certo punto ha messo giù 10 punti, ma che stanno in una pagina, due righe per ciascuno dei 10 punti, tutti meravigliosamente descritti, e l'ha fatto approvare per legge, cioè, che è una legge che di fatto è una raccomandazione, perché non è che ci sono dentro chissà quali dettagli. Il Parlamento l'ha approvato. Quindi questo è un fatto certamente interessante, però io continuo a cercare di trovare agganci a quello che ho letto qui, a quello che vedo e sento e discuto anche negli ambienti internazionali dove vado. Ecco, questo mi ha molto intrigato, quell'articolo sulla cittadinanza digitale, perché è un concetto certamente affascinante. Senza andare poi in tutto l'aspetto reti sociali, che chiaramente è un'implementazione molto ampia e anche che ha introdotto un sacco di nuove interazioni, ma già quando si parlava di posta elettronica, che fino a un certo punto era la principale applicazione, insomma, poi lo web l'ha ampiamente surclassata come traffico eccetera eccetera, attraverso la posta elettronica si potevano formare dei gruppi virtuali, quindi delle comunità virtuali che andavano a discutere determinati argomenti, ammettendo, chiunque, la rete per definizione può, tutti gli utenti, tutti quelli possono accedere e entrare in dei gruppi. E quindi si sono create queste gruppi virtuali specializzati su argomenti vari, a livello globale da una parte, questo è un aspetto estremamente interessante perché è uno scambio di cultura che avviene fra i cittadini di paesi vari del mondo, e poi ovviamente molto anche a livello nazionale, insomma. Ed è indubbio che oggi, è stato ricordato pure stamani, siamo stati testimoni di cose successe in Tunisia, poi in Egitto, poi ora appare a Teheran, nello Yemen, in Libia. Cioè, c'è una cosa preoccupante, ma preoccupante nel senso degli equilibri, poi io la interpreto positivamente. Voglio specificare poi una cosa, che paesi come la Tunisia e l'Egitto sono paesi dove c'è una educazione scolastica molto buona, molto efficiente, e quindi a un certo punto i giovani in particolare sono persone che hanno un orecchio verso il mondo più progredito, possiamo dire così tranquillamente, e quindi c'è una facilità che la rete mobility dei movimenti aggiornati di gente che cerca il futuro, di gente che a un certo punto vuole costruire qualcosa in stati che invece sono più controllati, polizieschi, controllo di polizia, o addirittura tirannici, e chiaramente fuori delle regole che noi riteniamo adeguate e moderne. E quindi se poi invece vediamo altri paesi africani dove magari l'accesso della popolazione alla rete è del poco per cento, e dove l'educazione non c'è, dove la grande massa della popolazione vive nelle campagne o comunque disperse, ecco, lì è più difficile che gli utenti della rete riescano a influire sulle evoluzioni sociali e delle realtà che ci sono. Però è indubbio che la rete senza dubbio costituisce un movimento in questo senso che certamente preoccupa certi leader di stati, l'Iran, per dire, e anche la Cina, ecco, perché la Cina poi, che è il leader dei famosi G77 presso le Nazioni Unite, che è poi un'associazione di persone e di stati che vorrebbero mettere un po' il controllo alla rete internet. In Cina che hanno fatto? Hanno cercato di filtrare tutta l'informazione che può essere accessibile dagli utenti della rete. E lo hanno fatto in una maniera piuttosto tosta, ecco, e certamente riescono in buona parte nello scopo, ma anche per un motivo fondamentale, che il 90% della popolazione cinese tutto sommato è d'accordo col governo, e quindi quelli che riescono nei commenti che vengono fatti anche dagli esperti tecnici si dice che un utente un po' smaliziato comunque riesce a eludere questi collegamenti, magari con dei collegamenti satellitari che poi vanno a dei server che non sono in Cina ma sono fuori della Cina o roba del genere. Quello che succede in Cina non succederebbe in Egitto o in Tunisia, ecco, per il motivo che dicevo prima, perché lì c'è una popolazione già più educata, più insomma moderna, così. E tutto questo porta a considerare questo discorso della cittadinanza elettronica, come la vogliamo chiamare, digitale, come qualcosa che certamente preoccupa gli stati con meno livello di democrazia, cioè fare un min cul pop, stile quelli nemmeno di tanti anni fa, di 70 anni fa, roba del genere come c'era in Italia e in Germania, di fatto oggi non è più nemmeno possibile. Salvo che ci sia una popolazione veramente asservita, e comunque d'accordo, ma sarà sempre più difficile, questo è un po' il punto. E quindi questo discorso poi che almeno in linea pratica non dovrebbe esserci una discriminazione nella cittadinanza digitale, perché è anche difficile farla. Di fatto, salvo che certi stati in realtà lo fanno, mettere dei grandi orecchi o roba del genere, cercare di individuare gli oppositori, roba del genere, per schedarli o roba del genere, quindi mettono paura in un certo senso. Noi che andavamo nelle riunioni in Egitto e anche in Tunisia, la Tunisia dove c'è stato il World Summit on Information Society, noi eravamo informati, occhio a quello che scrivi, nel senso che c'è di fatto un controllo assolutamente non trasparente, non dichiarato, non così, che può capitare in maniera arbitraria, Poi ci sono quelli che sostengono che ciò avviene anche negli grandi Stati Uniti, e certamente dove poi entrano in ballo problemi di guerra al terrorismo, è chiaro che certe attività dei servizi, vengono fatte in modo non trasparente, e questo è un altro dei temi certamente appassionanti, il fatto che da una parte ci sono i sostenitori giusto della privacy anche quelli che difendono l'anonimato, per dire, se non ci fosse l'anonimato nella rete Diciamo, allora sì che i dissidenti avrebbero poi dei problemi a esprimersi anche spontaneamente, a organizzarsi in qualche modo. L'anonimato, insomma, è una cosa che vogliamo proteggere. Ma d'altro canto esiste il cybercrime, la pedopornografia, quindi il terrorismo, roba del genere, per cui gli stati in qualche modo contravvengono all'ideale della protezione della privacy, e questa è una realtà che c'è, insomma, e quando si parla poi di diritti e della cittadinanza virtuale, insomma, bisogna essere capaci di mediare su queste cose, di chiedere più trasparenza, insomma, cioè discorsi di questo tipo qui. Però è ovvio che ci sono delle diciamo conflitti di interesse, ecco, per queste cose qui, così come ci sono conflitti di interesse da parte dei rappresentanti del settore privato, grandi aziende, e qui c'è uno degli articoli che parla abbondantemente di Google, il caso Google, che fa soldi con la pubblicità avvalendosi del fatto che tutta l'informazione che è stata prodotta, diciamo, è un patrimonio che loro, diciamo, diffondono nel mondo, e poi i soldi li fanno indirettamente non per l'informazione che hanno ottenuto, che è di proprietà di chi ce l'ha messa. E quindi questi sono dei temi che sono continuamente in dibattito a livello internazionale, per non entrare poi su tutti i problemi di intellectual property rights, cioè, e questo lascerei eventualmente a Juan Carlos De Matti di elaborare un po'. A questo punto c'è un altro articolo che mi ha interessato, e poi mi fermo, che è quello che riguarda il Parlamento italiano e diciamo gli auspici di cosa il Parlamento italiano potrebbe fare per diciamo avvalersi della evoluzione della tecnologia. Ora, su questo articolo più che altro viene detto quanto il Parlamento usa la rete, gli strumenti per migliorare il funzionamento del Parlamento. Però a noi, e l'abbiamo detto nell'ultimo IGF, quello che ci interessa è che il Parlamento impari la logica multi-stakeholder, impari a relazionarsi con gli utenti, col settore privato, eccetera, eccetera, in maniera che poi non vengano fuori quegli obbrobri di legge, proposte di legge che sono venute fuori, e ce ne sono almeno una dozzina, insomma, in campo, che sono state preparate in una maniera così all'improntitudine più assoluta. Succedeva anche col governo precedente, su questo io sono abbastanza bipartisan, e non a caso continuo questo mio mestiere di rappresentante all'estero ormai da 5 governi, per cui insomma, ho cominciato nel 99 quando c'era D'Alema, poi Amato, poi Berlusconi, poi Prodi e ora di nuovo Berlusconi. Quindi il Parlamento dovrebbe avere all'interno dei gruppi di gente che ha una certa competenza, che poi ha la voglia di spendere del tempo anche a consultare i più esperti, eccetera, eccetera, per vedere di arrivare a necessità, qualora ci siano, di qualunque tipo di regolamentazione, ma che siano fattibili, siano condivise dai principali attori interessati, eccetera, eccetera, come avviene nei paesi più avanzati, dove prima di fare una proposta di legge loro fanno sempre una pubblica consultazione via rete, diciamo, per capire se stanno sbagliando, se devono cambiare qualcosa, eccetera, eccetera. Mentre da noi qui c'è un'improntitudine veramente forte, nonostante tante sollecitazioni le abbiamo date in più occasioni. Ecco, diciamo, quindi questo è un tema che, partendo da qui, bisogna continuare a insistere, e l'idea sarebbe addirittura che si potesse creare un gruppo parlamentare bipartisan, perché poi questo è fondamentale, cioè, perché riportare nella gestione della rete le liti e lo stile delle attuali discussioni politiche sarebbe esiziale per la rete, diciamo così. Quindi mi fermo qui. Adesso. Allora, ringrazio De Martin per le sollecitazioni a cui cercherò di reagire in modo non veemente, però dopo, perché in realtà il problema più grosso di stasera è che ci troviamo a discutere di questi due numeri che sono usciti alcuni mesi fa, nel frattempo è successo di tutto. Due cose fondamentalmente: il caso Wikileaks e l'uso dei new media nelle situazioni di insurrezione, io direi più che rivoluzione, poi spiego perché utilizzo questo termine nei paesi nordafricani. Qui sta succedendo una cosa abbastanza pericolosa a livello internazionale, che viene messa in rilievo, secondo me, con grande lucidità da questo libro di Eugeni Morozov, di questo politologo di origine russa che è intervenuto con il titolo Net Delusion, però poi spieghiamo che non si tratta, come dire, di un discorso banalmente di pentiti di internet, così come non si tratta di questo, secondo me, per molti degli autori che ha citato De Martin. Il discorso che fa Morozov, ed è molto serio, è che in questo momento gli Stati Uniti hanno lanciato una cyberguerra fredda su tutti i fronti. La signora Clinton, con una faccia tosta, secondo me, stratosferica, no? Fa campagna costante per la libertà in internet dopo aver sostenuto un'operazione quasi fascista, no? E contro la Costituzione e il primo principio della libertà di parola degli Stati Uniti. Qualunque cosa noi possiamo pensare di Assange, a me non è particolarmente simpatico Assange, per una serie di motivi, che però questi non sono interessanti. Non diamo un giudizio sulla persona, sul fatto che possa essere paranoico, anche i suoi ex compagni lo hanno scaricato, una persona con tutta una serie di elementi di ambiguità e su cui ci sono dei punti oscuri rispetto al percorso biografico, eccetera, eccetera. Il problema è che l'operazione Wikileaks non è, fra l'altro, neanche un'operazione di hackeraggio, è un'operazione di controinformazione giornalistica paragonabile ai Pentagon Papers all'operazione che smascherò Nixon, no? Sulla questione delle intercettazioni dei suoi avversari politici e che lo costrinse alle dimissioni, è un'operazione giornalistica. Non è neanche un'operazione di hackeraggio, nemmeno quella del soldato che avrebbe trafugato i file, perché quella è una cosa da terza puntata della pallottola spuntata di idiozia dei servizi americani, che avevano costruito un sistema assolutamente penetrabile, per cui non c'era bisogno di una particolare autorizzazione, nessuno andava a controllare perché una persona che aveva accesso a quei file poteva, senza nessuna operazione di aggiramento, scaricare tranquillamente centinaia di migliaia di file. Quindi operazione assolutamente demenziale dal punto di vista della sicurezza del sistema che doveva essere difeso, e operazione puramente giornalistica che viene fatta. C'è un articolo di 15 pagine del New York Times, del direttore del New York Times, che spiega per filo e per segno come è stata fatta la cosa dal Guardian, dal New York Times e dal Der Spiegel, a cui si sono aggiunti poi El País e Le Monde, che hanno discusso ogni passaggio con Assange, Fra l'altro, New York Times dialogava anche con il governo americano nel frattempo, dicendogli: guardate che stiamo per pubblicarle queste cose. Quindi era una operazione a tutti gli effetti giornalistica, a cui c'è stato un overreacting, una reazione allucinante, a parte la questione della fondatezza o meno delle accuse che gli vengono rivolte in Svezia, anche questo mi interessa relativamente, sono molto dubbie, secondo me, almeno in uno dei due casi. L'operazione è chiarissima, cioè riuscire a farlo estradare in Svezia, poi farlo estradare dalla Svezia negli Stati Uniti e punirlo alla Guantanamo, fra virgolette, come sta in questo momento, come viene in questo momento punito il giovane militare che pare chiuso in una cella di 2 metri per 2 e sottoposto a forme di tortura psicologica, come i terroristi afghani che erano stati arrestati nell'operazione di alcuni anni fa. Quindi un'operazione allucinante. Non c'è nessuna legge americana per cui Assange possa essere incriminato. Non c'è, se la devono inventare, e fanno di tutto per inventarsela e per costruire le condizioni per... Allora voi dite, vabbè, questa è una questione che riguarda uno, mentre di là... No, non me ne frega niente, è una questione di principio. Cioè, gli Stati Uniti in questo momento non hanno il diritto, come nazione e come governo, di assumere la difesa, fra virgolette, della libertà in Internet. Puramente e semplicemente. Prima questione. Seconda questione, la dottrina che sta dietro tutto questo, e Morozov lo spiega molto bene, lui la chiama dottrina Google, è una variante della dottrina della funzione dei media nella guerra fredda classica. Cioè l'idea, peraltro sbagliata, era: facciamo penetrare i prodotti dell'industria culturale occidentale al di là della cortina di ferro, passerà poco tempo e arriverà il mercato e la democrazia. Il mercato è arrivato, la democrazia no. Possiamo fare, no? È arrivato Putin, non la democrazia di là. Primo. Secondo, non era vero neanche che la penetrazione dei prodotti culturali in quanto tali potesse garantire il crollo. Il crollo è stato economico per motivi endogeni, quello dell'89, e non sicuramente per la propaganda, la controinformazione dell'Occidente. Ci sono delle bellissime ricerche, che cita Morozov, che sono venute fuori dagli archivi della Germania Est, del regime di Pankow, dopo la caduta del muro, che dimostrano che la televisione dell'Ovest, che arrivava nella Germania Est perché non potevano schermarsi più di tanto, bene, le regioni più esposte erano quelle dove era più alto, per ricerche fatte dal 66 all'89, il tasso di, come dire, soddisfazione nei confronti del regime comunista. Dice, perché? Perché credete che si guardassero le news? No, guardavano Dynasty, guardavano Beautiful, guardavano Dallas, guardavano e più consumavano prodotti, fra virgolette, dell'industria occidentale, più si tranquillizzavano e tutto sommato pensavano che le cose non andavano poi neanche tanto male nel loro paese. Fra l'altro, giustamente, Morozov dice, guardate che questa è una cosa che hanno già capito anche i cinesi, perché il tipo di filtro che viene fatto dal governo cinese è sostanzialmente tollerante nei confronti, sempre più, di fatto, anche se in teoria no, di pornografia, di spezzoni rubati contro le leggi del copyright ai media occidentali e riciclati nelle YouTube cinesi, eccetera, eccetera. Cioè il consumo culturale dei prodotti mainstream non è di per sé un elemento di democratizzazione. Quello a cui mirano gli Stati Uniti è, uno, la penetrazione sul mercato cinese, che gli scappa, perché al di là della rottura fra Google che si ritira a Hong Kong, il problema è che là funzionano social network cinesi, motori di ricerca cinesi, su un mercato di 400 milioni di utenti, che sono al 99% filogovernativi. Ci sono una quantità mostruosa di blog, e il problema maggiore del governo cinese non è tanto far fuori i dissidenti, che in Cina non conosce nessuno. Noi li conosciamo e ne parliamo tantissimo. In Cina sono blogger filogovernativi, soprattutto anti-americani, ma soprattutto anti-giapponesi. E un problema bestiale che hanno è quello di farli stare un po' calmi, perché a volte creano addirittura dei problemi diplomatici che non piacciono tanto al governo. Quindi primo punto, una guerra su cui io non mi schiererei, così al di là di quello che io posso pensare rispetto alla dittatorialità e alla mancanza di libertà in Cina. Secondo punto, l'idea che viene fuori è che c'è l'Occidente e tutto il resto uguale. Non è vero. Neanche la Tunisia e l'Egitto sono uguali fra di loro, e infatti hanno avuto dinamiche diverse i due momenti. Dipende dagli strati sociali che sono presenti, da quanti sono i giovani laicizzati e culturalizzati all'occidentale, e anche lì all'occidentale stiamo attenti, perché sempre sul New York Times una serie di interviste a blogger tunisini che dicevano: per favore non aiutateci troppo e non esaltateci troppo i famosi 30 milioni che sono stati stanziati per aggirare, no? I filtri, perché ci fate fare la figura degli agenti americani. Noi non siamo filoamericani, vogliamo fare la nostra rivoluzione, non vogliamo instaurare qua una democrazia di tipo occidentale. Il discorso è molto più complesso in tutti questi paesi. La rete ormai è un qualche cosa che, al di là delle balcanizzazioni dall'alto, è una balcanizzazione dal basso, perché a mano che 2 miliardi di persone si appropriano di questo medium, lo plasmano. Oggi l'inglese, che all'inizio dominava tantissimo, è forse al 25% come lingua di comunicazione in rete. Fra poco la prima sarà il cinese, lo spagnolo dilaga ovviamente, su tutta l'America Latina, gli stessi immigrati ispanoamericani negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Si differenzia tantissimo. Quindi questo pone una serie di problemi anche rispetto ai discorsi di un Bill of Rights enormi, cioè perché è sempre più difficile formulare, come dire, far rientrare all'interno di una definizione universalista accettata da tutti, no? Noi non possiamo pensare a un'esportazione della democrazia occidentale come modello unico. Dobbiamo lavorare perché si allarghino gli spazi di libertà e di partecipazione dappertutto, però ognuno di questi processi avrà una sua dinamica, probabilmente endogena. La cosa che a me interessa di più di quello che è successo in Cina, francamente, negli ultimi 2 anni, dal 2008, non è il fatto tanto dei dissidenti, per cui mi dispiace tantissimo. La cosa bellissima è che gli operai cinesi usano internet per fare le lotte alla Toyota, per fare le lotte nelle fabbriche di automobili. Hanno avuto mediamente il 17% degli aumenti salariali negli ultimi 2 anni e hanno fatto una quantità mostruosa di ore di sciopero che prima erano proibite e ora di fatto non riescono più a fronteggiare. Lo scandalo Foxconn, no? 800.000 dipendenti, 11 suicidi, sono quelli che fabbricano tutti i pezzi per la Apple, per Microsoft, per HP, per Intel, eccetera, eccetera, è venuto fuori attraverso un uso dal basso delle comunità dei proletari cinesi che hanno cominciato a usare questo sistema per coordinarsi fra loro e sfuggire al controllo governativo. Un po' ambiguo, perché in realtà il governo ha mollato le redini, perché sta cominciando a pensare un modello di sviluppo basato sull'aumento del reddito interno invece che sull'esportazione di lavoro, di prodotti basati sul lavoro a basso costo, che mette in difficoltà fra l'altro il famoso Walmart economy americana, che è fondata sul basso costo del lavoro in America con l'importazione di prodotti cinesi a basso costo negli Stati Uniti, quindi crea, come dire, un meccanismo molto complesso di conflitti e lotte a livello internazionale. Ma veniamo alle osservazioni. Allora, io penso che ormai l'opposizione fra apocalittici e integrati è roba vecchia, abbiamo fatto il suo tempo. E gli elementi critici che stanno emergendo, soprattutto, Lenier e Carte, tutto sommato, ma in parte anche l'ultimo della Sherry Turkle, che ha fatto un libro che si chiama Alone Together, dove dice tutto il contrario di quello che aveva detto nella vita sullo schermo, pentita radicalmente, dice: aiuto, aveva ragione il vecchio Weizenbaum nel 66. Ma al di là di quello, mi interessa meno questo aspetto. Gli altri autori, appunto Morozov, ma anche Tim Wu, The Big Switch, che è uscito da poco, e altri ancora, che si analizzano soprattutto gli aspetti economici sociali e politici della rete non sono dei pentiti che sono diventati improvvisamente apocalittici, è che secondo me finalmente gli intellettuali che sono stati tutti affascinati, io scrissi questo libro 10 anni fa incantati dalla rete, lo eravamo tutti, me compreso, cominciano a rifare il loro mestiere, cioè a cercare di distinguere fra realtà e mito. Qui Martin ha dato un elemento decisivo, perché quello che lui chiama il neoismo americano, no? C'è qualcosa di più. Nobel ha parlato di religione della tecnica, no? Una religione che affonda le radici nell'Ottocento, che va lontano. C'è un'influenza addirittura, ci sono derive neognostiche, no? Dualiste, stranissime nelle ricerche dell'intelligenza artificiale, che hanno un peso effettivo. Dice, vabbè, deliri, piano, piano. Perché, come ci aveva insegnato Polanyi, studiando il liberismo inglese dell'Ottocento, che era una religione a tutti gli effetti, basta leggere i saggi che scrivevano gli economisti nell'Ottocento inglese, fu a fondamento di una cosa spaventosa, del meccanismo pazzesco dell'accumulazione primitiva in Inghilterra a nome del libero mercato. Secondo me, cioè, personaggi come Shirky, che tanto ingenuo non è, perché Shirky è anche un docente universitario ed è consulente di Clinton adesso, insieme a Tapscott, insieme a Schmidt, che è il CEO, ex CEO di Google, che è stato l'artefice della vittoria elettorale di Obama, e Google è passata all'incasso con l'ultima sentenza della Federal Communication Commission, che ha applicato alla lettera il protocollo d'intesa che era stato fatto da Google e Viacom qualche mese prima, buttando a mare di fatto la neutralità della rete, perché ha deciso, sì, la neutralità della rete la difendiamo, ma solo per le vecchie tecnologie, non per il Wi-Fi. Fra 5 anni le connessioni saranno in larga maggioranza Wi-Fi. Quindi vuol dire mano libera agli operatori, alle telecom e agli operatori che gestiranno le reti Wi-Fi e che potranno introdurre differenziazioni di tariffa, di velocità di banda, e c'è tutto quello per cui ci battiamo, uno dei principi fondamentali che Rodotà indica come elemento irrinunciabile di un Bill of Rights della rete, e che riguarda anche la libertà di accesso, perché l'accesso non è, no? Se accedo con la banda larga e a ipervelocità perché pago di più, come dire, la libertà d'accesso comincia un po' a zoppicare insieme alla neutralità della rete. Allora, tutto questo per dire che cosa? Diceva Martin, e io sono d'accordo, dobbiamo sempre ragionare anche in termini di cosa potrebbe essere se. Io, che sono più pessimista, dico che cosa avrebbe potuto essere se. Nell'ultimo libro, che arriverà fra poco, e che è un pamphlet feroce contro l'economia web 2.0, mi rifiuto di fare ulteriori autocritiche, che ho già fatto 2 anni fa, sui miei antichi entusiasmi, dicendo che quando si comincia a dire ma era ovvio che sarebbe andata così, no? Non è vero, cioè la necessità storica è quasi sempre una costruzione a posteriori. Dopo che le cose sono andate così, era ovvio che avrebbero dovuto andare così. Cioè, in realtà, per fortuna, nella storia si aprono delle finestre di opportunità. Come nell'evoluzione, io sono un saltazionista, sono più della parte di Gould che dei vecchi darwiniani, e penso che ci siano delle fasi differenti in cui il tempo accelera dell'evoluzione, si aprono delle opportunità, e lì è il kairos dove riesci, puoi tentare di fare qualcosa. Ho paura che ci abbiano già fregato, cioè che ci sia stato un passaggio negli ultimi 4-5 anni, un'accelerazione mostruosa dei poteri forti, del controllo dei poteri forti, sia economici che politici, nei confronti della rete, che tendono a fregarci fondamentalmente. Quando anche Martin dice, parla di leggi del cyberspazio, allora, io non credo alle leggi dell'economia, perché penso che l'economia sia prodotto di conflitti sociali e non di leggi astratte, quindi non credo neanche alle leggi del cyberspazio. Penso che è vero che ci sono delle costruzioni culturali non prodotte, rese possibili dal codice informatico, è diverso, rese possibili, non prodotte, deterministicamente dal codice informatico, perché poi ci sono sovradeterminazioni economiche, rapporti di forza, livelli culturali, digital divide, non solo nel senso dell'accesso, ma anche nel senso di quello strato sociale cosa riesce a farsene, quell'altro invece che cosa, eccetera, eccetera. E qui, allora, i quattro punti che pone lui sono molto rapido. Sulla questione della democrazia, ormai definire la democrazia è diventato un bel match, cioè nel senso, io parlo sempre di post-democrazia, so che Stefano non è completamente d'accordo con me, anzi non è d'accordo con me, però al di là di quello, come dire, siamo in una situazione dove ogni volta che usiamo il termine siamo in qualche modo costretti a spiegare che cosa intendiamo da questo punto di vista. Allora, qui io credo che il punto di contraddizione, appunto, fra che cosa potrebbe essere se, cosa avrebbe potuto essere se, eccetera, eccetera, emerge con grandissima evidenza nell'ultimo libro di Castells, che è Comunicazione e Potere. Perché qui Castells presenta due tesi che sono apparentemente contraddittorie a 180 gradi. Da un lato dimostra, empiricamente e dati alla mano, che c'è stato il più grande processo di concentrazione monopolistica della storia del capitalismo in assoluto negli ultimi 10 anni. Quando lui parla di mardochizzazione dell'industria dei media e dell'ICT. Quindi, hai voglia, altro che capitalismo personale, tutti possono accedere, la soglia si è abbassata, eccetera, eccetera. Per niente. Però, dall'altro canto, dice, c'è l'autocomunicazione di massa. Quindi che cosa potrebbe essere se, cioè l'apertura di spazi assolutamente inediti. Che è vero, io non contesto questo. Dico che diventa sempre più difficile gestirli questi spazi. Siamo di fronte a una resistenza che cresce esponenzialmente e che rischia di farsi schiacciante. Sulla balcanizzazione in parte ho già detto, la vedo anche dal basso e non soltanto dall'alto. Non è un'affermazione apodittica, o meglio, in quegli articoli probabilmente è un'affermazione apodittica. Io partivo da due ricerche empiriche che abbiamo fatto come Istituto di Comunicazione Politica a Lecce sull'uso di Facebook nelle campagne elettorali prima delle amministrazioni del 2009 e poi nelle regionali in Puglia. E il dato era clamoroso, cioè almeno sul piano della comunicazione politica sicuramente la rete è un dispositivo di polarizzazione assoluta, non di confronto. Cioè la gente va a cercare quelli come loro, va a cercare conferma di quello che già pensano di sapere, che sanno, che vogliono, che desiderano. C'è proprio una spaccatura nettissima e ogni volta che c'era un tentativo della controparte di intervenire nei forum, nei blog, venivano immediatamente cacciati, bannati, buttati via, taci fascista, oppure taci comunista, no? Cioè, niente da fare. Quindi questo è un dispositivo, secondo me, non è un'ipotesi, è allo stato dei fatti un dato di fatto. Sull'emozionalità, e anche qui, cioè, non so se li ho citati o meno, ma partivo da delle ricerche empiriche, non mie, ma di altri, De Fraia dello IULM, la Mappelli dell'Università di Tieste, un'altra ricerca che è stata fatta in collaborazione fra Punto Informatico e l'Università di Trieste su centinaia di blogger italiani. E la cosa che emergeva, cioè era appunto che il punto di fiducia nei confronti dei blogger non era un punto di fiducia basato sulla affidabilità, oggettività dell'informazione, ma sul fatto che c'era una relazione personale, affettiva, individuale, da persona a persona, fra i blogger e i loro lettori. L'ultimo punto, potere carismatico, guarda, ha classicamente definizione weberiana. Per me il carisma è secolarizzazione del carisma religioso, che cambia storicamente. Attenzione, il carisma di Vendola è un carisma di tipo nuovo, fondato moltissimo sulla parola, con cui si litiga alla grande in questo momento in Puglia fra chi è sfrenatamente entusiasta di questa cosa e qui qualche dubbio lo pone dicendo attenzione, che qui stiamo facendo, come dire, specularmente qualche cosa che sta facendo la controparte. Parliamo pochissimo di programmi e molto di pancia, fra virgolette. Tant'è vero che, come dire, il consenso di Vendola alle ultime regionali ha presentato uno scarto impressionante fra il consenso sulla sua persona e il consenso sulla lista. Cioè Vendola è stato votato anche da destra. È stato votato anche da destra in una serie di situazioni. Cioè, allora, questa cosa, e qui finisco, mi riporta anche a Obama, perché che è stato assunto come modello in pieno. No? I ragazzi che io conosco benissimo, che hanno gestito la campagna elettorale online, hanno copiato quasi con la carta carbone tutte le operazioni che erano state fatte durante la campagna del 2008 negli Stati Uniti. Allora, la cosa, il brutto di tutto questo, a me va anche bene, cioè lo voto, per carità, mi allineo e sono contento che abbiamo battuto il centrodestra. Però il problema è che così vinci la campagna elettorale, i guai cominciano subito dopo però, perché non basta vincere la campagna elettorale. Se tu prometti anche attraverso i nuovi media, nuove forme di partecipazione, il programma l'avete fatto voi, concorrete a stabilire la linea politica, quando il giorno dopo si comincia, come fa la politica, a decidere, fregandosene completamente invece, no? Perché poi diventa un meccanismo di puro sondaggio, questo l'ha spiegato molto bene Rodotà nei suoi lavori. Cioè passi dalla partecipazione al sondaggismo, dalla campagna elettorale, se non istituzionalizzi le nuove forme di democrazia, se non gli dai corpo, peso reale, hai fatto un'operazione puramente demagogica. Posso appoggiare, posso preferire che ne vinca una di demagogia piuttosto che un'altra, però il rischio è sempre quello. Insomma, per concludere, il problema è non dire gli è tutto da rifare alla Bartoli, no, che disastro, abbiamo detto scemenze fino a poco fa, la rete non serve a niente, eccetera. No, è semplicemente prendere atto che alcuni problemi non li avevamo proprio visti, né si potevano vedere ancora obiettivamente, perché poi le tecnologie, fra l'altro, sono cambiate mostruosamente nel corso del tempo, i social network sono mica i blog, non sono, tanto meno sono siti, cioè è proprio cambiata la dinamica. E anche perché intanto qualcuno si è svegliato e ha cominciato a lottare con le unghie e coi denti per prendere il controllo della situazione. Siccome le unghie e i denti ce li ha, e sono molto lunghi e affilati. Mi piacerebbe molto a questo punto che intanto una campagna elettorale si assolutamente. Anch'io, a prescindere. Questo lo dalle... diciamo tra virgolette grazie, sì. In camera carità Francesco. Sì, grazie. Grazie alla fondazione che ci ospita, grazie a Stefano e agli amici che ho avuto modo di conoscere questo pomeriggio. Io condivido sostanzialmente quanto detto da Carlo, tranne che la battuta iniziale che mi permette poi di esplicitare la prospettiva di ricerca che ho adottato non soltanto nel mettere insieme questo volume ma anche altri lavori. Cioè quando Carlo dice da 5 mesi a questa parte è successo di tutto, cioè il mondo è cambiato. Ecco, io direi facciamo attenzione perché un atteggiamento del genere già ci ha accompagnato per il passato, cioè rispetto ad alcune trasformazioni o novità della rete, in altre occasioni noi abbiamo già reagito in questo modo, cioè tutto è cambiato. Dal suo intervento, tra l'altro, vengono fuori elementi che sono apparentemente distanti e discordanti, nel senso che parla di guerra fredda del cyberspazio, parla di economia, ma parla anche di blog e di campagne elettorali. Ecco, questo lo voglio ricordare perché mi permette di esplicitare un'insoddisfazione che ho avvertito sin dai miei primi studi sul cyberspazio. E qual è l'insoddisfazione? Quella appunto di intanto di intrattenersi prevalentemente, almeno fino a qualche anno fa, proprio sulle manifestazioni, per così dire, esteriori o sugli usi della rete, sulle pratiche sociali, non perché questo non sia importante, ma ritengo che fosse, come dire, un limite degli approcci, perché intanto venivano fuori nuovi elementi, nuove trasformazioni e dati che avevano a che fare con l'economia, con le istituzioni, con il potere politico, diciamo, nelle sue manifestazioni nazionali e transnazionali. Ero alla ricerca, lo confesso, come dire, di una prospettiva di ricerca, di una cassetta degli attrezzi che mi potesse permettere in condizione di tenere insieme, per quanto è possibile, questo magma terribile. E ho creduto di trovarlo in un approccio che ho definito brodeliano, un altro lavoro, cioè, come dire, un approccio storico-politico che guarda ai tempi della storia, cioè guarda alla lunga durata, guarda alla congiuntura e guarda a quello che Brodel ha definito l'evenemenziella. Perché questo mi ha permesso in qualche modo di istrigarmi in una materia che altrimenti è un ginepraio? Perché in realtà, se noi poniamo mente ad alcune come trasformazioni provocate, generate dalla rete, sia sul piano, come dire, dei rapporti di forza che sul piano della produzione intellettuale, dei modelli culturali, noi assistiamo ad alcune cose che sono particolarmente istruttive. Cioè assistiamo intanto ad una riproposizione di vecchi temi. Cioè Brodel ci dice, facciamo attenzione che, come dire, il sistema storico entro cui viviamo, quindi non dimentichiamoci che siamo in un sistema storico determinato, ma che ha un nome ben preciso, che un sistema capitalistico, ha una sua storia, un suo inizio e avrà anche una sua fine. Intanto ci sono delle trasformazioni. Dice Brodel, se noi guardiamo alla lunga durata, come dire, andiamo al di sotto della superficie, cioè andiamo a vedere dei processi che affondano le radici nelle origini del sistema storico capitalistico. Io qui faccio rapidissimamente tre esempi. Una lunga durata attiene, secondo me, alla produzione di miti, cioè la rivoluzione digitale per me è una rivoluzione, ma non significa che vada connotata in senso positivo o negativo, cioè sta cambiando veramente tutto nel nostro mondo. È stato accompagnato, Carlo in parte lo ricordava, da una produzione di miti, cioè una produzione di miti anche a sfondo religioso. Qualcuno l'ha studiato e Carlo ricordava, come dire, posizioni gnostiche sul tema, non soltanto in America ma anche nel mondo anglosassone, in particolare in Inghilterra, nel senso di una rivoluzione tecnologica che permetteva, come dire, una palingenesi del mondo dell'essere umano. Ma se andiamo a guardare altri temi, un tema che ho affrontato nel saggio è quello della cittadinanza, nel senso che è proprio vero che la cittadinanza digitale sia così scontata nei suoi esiti, come dire, è proprio vero che la grammatica della cittadinanza trovi una risposta immediata nelle politiche che i governi cercano di attuare, oppure che noi suggeriamo, auspichiamo che attuino? Beh, fino a un certo punto, nel senso che la cittadinanza digitale in realtà pare che stia riproponendo delle dinamiche, per quanto su scala, come dire, allargata, che la vita del sistema storico capitalistico ha già conosciuto, soltanto che, per così dire, declinava questi problemi con altri lemmi, con un'altra terminologia, ovviamente adottando percorsi diversi. Un ulteriore, devo dire, piacevole, come dire, lettura è stato il libro recente di uno storico. Qui auspicherei che gli storici facessero più ricerche su questi temi, il testo di Adrian Jones, Pirateria, che è stato in parte appena uscito, ma è un'opera straordinaria. Repubblica ha pubblicato appunto una sua relazione, credo che ha tenuto a Venezia, dove da un punto di vista dello storico ricostruisce i passaggi della pirateria, quindi delle contraddizioni, delle tensioni che la pirateria o la proprietà intellettuale, sin dalle origini dell'invenzione della stampa per arrivare fino a Google, ha di volta in volta generato. Ha generato rispetto ai poteri degli stati, rispetto alle istituzioni dell'economia e anche rispetto alle culture. Questo per dire appunto che c'è di volta in volta, come dire, un'onda lunga, diciamo, del sistema che in qualche modo bisogna provare a non perdere di vista, perché altrimenti, come dire, corriamo il rischio di dire appunto tutto è cambiato. Forse sì e forse no, dobbiamo di volta in volta capire dove ci andiamo a collocare. La lunga durata, ma ancora forse più interessante, per quanto è possibile, secondo me, l'idea di Brodel della congiuntura. Perché è sulla congiuntura che probabilmente si gioca oggi la partita anche della costituzionalizzazione della rete. Che vuol dire congiuntura? Vuol dire, secondo Brodel, come dire, che siamo nel pieno di una trasformazione, come dire, di un'oscillazione del sistema, Io questa oscillazione, per quanto riguarda l'epoca che viviamo, posso farla risalire sostanzialmente agli anni 70, con la grande crisi petrolifera, come dire, cambiano i rapporti di forza e nuovi scenari si vanno delineando. Cioè il sistema subisce una crisi profonda del suo funzionamento, fermo restante con il sistema capitalistico, però vede in gioco nuovi attori e un'esigenza di nuove politiche, anche di nuovi modelli culturali. Il liberismo nasce in quella fase, il paradigma liberista, ma nascono in quella fase anche le prime politiche incisive che soltanto oggi vengono alla luce, ad esempio del colosso cinese, che secondo me insieme alla Cina è l'attore sullo scenario internazionale che maggiormente bisogna tenere d'occhio. In realtà già nella Cina maoista, immediatamente anche dopo la morte di Mao, le idee cinesi ce l'hanno ben chiare. Cioè loro devono fare investimenti possenti per innovare e per provare a scalare, per così dire, la classifica nella graduatoria del potere mondiale. E ci sono riusciti, i dati quotidianamente ci parlano di una potenza, quella cinese, che ormai minaccia l'egemonia culturale ed economica statunitense, ed uno dei fronti di maggiore, per così dire, criticità, di maggiore complessità e anche come durezza è proprio il controllo del cyberspazio. Cioè, noi molto spesso, anche perché i resoconti giornalistici ci parlano degli oppositori, dell'uso della rete, del blog e via discorrendo, e quindi anche dei meccanismi che il governo cinese attiva per censurare verso l'esterno e all'interno queste iniziative. In realtà secondo me è molto più interessante vedere come il governo cinese e le industrie cinesi hanno fatto di tutto e stanno anche ottenendo risultati significativi per sottrarsi al predominio delle corporation americane, che in una prima fase hanno invece messo le mani sul mercato cinese, ma non solo in termini, per così dire, di mercato dove vendere dei prodotti, ma del mercato cinese in termini di forniture di servizi e di software. Cioè la rete in Cina è stata costruita su standard statunitensi. I cinesi si sono posti il problema di liberarsi e di rendersi autonomi rispetto a questa politica, per così dire, americana, di egemonia che passa attraverso il codice della rete, ecco, possiamo dirla così, il codice come fattore di egemonia culturale. I cinesi stanno ottenendo, secondo me, dei risultati interessanti per svincolarsi da questa egemonia americana. Rispetto quindi a questa fase che possiamo definire congiunturale, nel senso che si vanno ridisegnando i rapporti di forza geopolitici, qui voglio ricordare che non è soltanto il Brasile, ma è tutta l'area iberoamericana che sta cercando di darsi una, per così dire, fisionomia, identità proprio nel fatto di politiche di regolazione, di intervento sulle strutture e le infrastrutture della rete. Qualche anno fa c'è stato, ad esempio, per fare un riferimento concreto, un'iniziativa per una sorta di carta costituzionale delle politiche per il governo elettronico, firmata dai governi di tutta l'area latinoamericana, ma questo appunto all'interno di un percorso che possiamo definire di riposizionamento di questa area nello scacchiere mondiale dei poteri. Ecco. Allora, se questo è lo scenario, e questo secondo me è uno scenario che va seguito, è chiaro che il problema della costituzionalizzazione della rete deve affrontare delle sfide enormi. E qui condivido la preoccupazione, le perplessità di Carlo, nel senso che uno ha l'impressione che la partita, in qualche modo, se non è chiusa del tutto, sicuramente ha dei margini, per così dire, di intervento molto più ristretti rispetto a quello che uno pensava appena qualche anno fa. Ciò non toglie, tuttavia, che proprio perché siamo, come dire, in un'arena dove la politica gioca un ruolo, ebbene, il ruolo che ad esempio l'Unione Europea può provare a svolgere trovando alleanze, perché noi trovando alleanze anche in altri partner, provando a innescare dei meccanismi virtuosi dal punto di vista della cultura, qui Stefano richiama spessissimo, no, la Carta dei diritti fondamentali, cioè appunto questa cultura che sostanzialmente è europea, per farla valere, diciamo, nelle sedi dove questa partita realmente si gioca, che non è un'unica sede, ma può essere l'ONU e possono essere anche altre sedi dove tutte le forze stanno trovando, per così dire, spazi di rappresentanza. Ecco, se in questa partita che si gioca ovviamente un ruolo può anche provare ad averlo la cosiddetta società civile, ben venga. Io credo però che sostanzialmente il livello politico-istituzionale, cioè dei rapporti tra gli stati o di blocchi di stati che si confrontano e devono o possono trovare anche degli elementi di mediazione per provare a definire delle regole condivise, è uno sforzo che va praticato, va tentato, anche se appunto l'esito allo stato attuale mi sembra molto difficile da prefigurare. Io vi ringrazio per l'attenzione, soprattutto. Ecco. Sì, mi presento, io mi chiamo Vittorio Bertola, sono individuo interconnesso, imprenditore, ingegnere, blogger, esperto di internet governance. Ultimamente mi chiamano anche politico, per quella definizione che io rifiuto abbastanza perché non mi ritengo un politico professionista e non lo voglio diventare, però sono candidato sindaco di Torino, tra le altre cose, per cui effettivamente capisco anche che la definizione arrivi. Però qui, diciamo, volevo intervenire forse proprio su questo tema, cioè come persona che un paio di anni fa ha provato, anche non solo per, diciamo, per l'interesse nella politica, per la voglia di fare qualche cosa vista la situazione e così via, ma anche un po' con la curiosità di vedere se veramente poteva funzionare, come può funzionare in Italia un approccio alla politica fatto dal basso, quindi in maniera sostanzialmente alternativa, quindi senza alcun tipo di media, perché tanto in Italia i media non danno spazio a nessun partito che non sia inserito nel sistema, per cui lo spazio è sostanzialmente nullo o addirittura negativo, nel senso che lo spazio che viene dato per criticare o per mettere in cattiva luce. Per cui un movimento politico che basa tutta la propria comunicazione esclusivamente sulla rete, direi in parte tramite un sito molto frequentato e in parte tramite Facebook, anzi il grosso delle nostre attività di comunicazione sono basate essenzialmente su Facebook. E devo dire che posso confermare quello che diceva Carlo prima, mi sono ritrovato abbastanza in tutto quello che è stato detto. Mi ritrovo nella questione dell'identificazione emotiva perché dovendo comunicare poi parecchie volte al giorno su Facebook, continuamente aggiornando, riscontro che spesso l'interesse non è tanto per le questioni politiche, che magari ci sono anche, ma semplicemente su cosa hai mangiato quella sera, hai visto Sanremo in TV, eccetera. E quindi le persone che ti votano vogliono stabilire un contatto continuativo con te, sapere chi sei, condividere emozioni. Bello brutto che sia, però cioè, ho avuto tante persone che mi hanno detto ti voto perché tifiamo per la stessa squadra, ti voto perché guardavamo da piccoli gli stessi cartoni animati, cioè quello è il genere di cose che fanno scattare un'identificazione. Poi ovviamente c'è anche una questione di fondo, cioè non c'è solo quello, ci deve essere una condivisione generale, però quegli elementi lì forse sono quelli che fanno scattare nelle persone l'identificazione e forse spiegano anche perché invece la classe politica vera e propria attuale italiana faccia fatica tutta insieme a condividere, almeno nella mia generazione. Io ho 36 anni e probabilmente le persone della mia generazione non riescono a identificarsi emotivamente in nessuna delle persone che vedono. E quindi questo è sicuramente un problema. Peraltro, confermato anche dal fatto che ad esempio sul nostro sito web, dove esponiamo tipicamente i candidati, il programma eccetera, la pagina dei candidati fa dalle 3 alle 5, 6 volte più accessi di quella dell'indice del programma, non parliamo poi degli approfondimenti. Quindi le persone arrivano, la prima cosa che cliccano è candidati, persone, vogliono sapere chi sono, cosa fanno, vedere le facce. E quindi appunto, di nuovo, bello brutto che sia, per certi versi è preoccupante, però c'è effettivamente una domanda di questo genere. Sul fatto che la comunicazione dal basso funzioni, è vero che è polarizzata, per cui alla fine anche diciamo il seguito, cioè io sono partito la prima volta 2 anni fa con un profilo Facebook appena aperto e man mano, adesso il mio profilo Facebook ha 2000 contatti, quello del gruppo ne ha 4-5000, insomma, quindi man mano questa accumulazione si è basata per massa critica, quindi all'inizio lentamente, poi quando si è scattata la massa critica, le persone che avevano le stesse idee automaticamente cominciano ad aggregarsi e si crea questa massa e si crea una rete di profili in questi social network, alcuni più grossi, alcuni meno grossi, però collegati proprio per similitudine. Ed effettivamente è difficile relazionarsi, anche se io per carattere sono molto curioso, tendo sempre a andare anche a cercare opinioni diverse dalla mia, confrontarmi, capire se c'è qualcosa da apprendere. Però è raro, di solito appunto la reazione di fronte alla diversità di opinione è un muro. Perché comunque, specialmente da noi, la politica è vista come una tifoseria, per cui di fatto è più un sperare che la propria squadra vinca che un ragionamento politico di qualche genere, sempre per questo meccanismo di identificazione. Devo dire, forse nella mia esperienza lo è di meno, cioè nella mia esperienza che abbiamo delle persone forse un po' più aperte e razionali della media, però non so, magari è soltanto un'impressione così. Quindi insomma, più o meno questo però insomma, la conclusione è che la cosa funziona, nel senso che appunto se contate che noi abbiamo speso per un'intera campagna elettorale regionale 12.000 euro e abbiamo preso il 4% dei voti, cioè una percentuale che molti partiti non hanno mai preso in 50 anni di vita, e tutto questo con i sondaggi che fino al giorno prima del voto ci davano allo 0,2, 0,4, 0,5, aperte le urne sono spuntati questi voti che nessuno aveva visto, nessuno sapeva che esistessero, nessuno immaginava che potessero esistere, cioè erano completamente al di fuori del sistema politico tradizionale. E parlando con le persone, perché incontrandole ai banchetti, per strada, eccetera, facendo attività sul territorio, sono tutte persone all'80% che non votavano più. Non votavano più da tempo e quindi non rientravano in questi calcoli, erano persone che non esistevano più per il sistema politico, non erano più prese in considerazione proprio come domande e offerta politica e non erano prese in considerazione nei sondaggi. Quindi forse c'è stato anche un recupero democratico. Devo dire che la situazione però sta peggiorando, cioè io vedo, proprio perché frequento queste bacheche su Facebook, sempre meno voglia di comunque partecipare costruttivamente alla politica, sempre più rabbia e basta, per cui questo è un problema veramente da gestire. Noi all'inizio speravamo anche veramente di fare degli esperimenti di democrazia dal basso, lo speriamo ancora, cioè una delle nostre, diciamo, delle cose che noi abbiamo proposto, che anche suscitano comunque interesse, è l'idea di portare il modello svizzero, il referendum senza quorum dal basso, l'elezione del difensore civico, insomma una serie di forme di democrazia partecipativa anche più spinta, diciamo, magari 20-30 anni fa si parlava di decentramento, ad esempio nell'amministrazione di una città, di decentramento dei poteri nelle municipi, nelle circoscrizioni e così via. Adesso si passa direttamente ai referendum, alla deliberazione dal basso, che però è un'evoluzione di quel processo e che in fondo rassomiglia abbastanza anche all'effetto che ha la rete sul potere. Però bisogna dire che c'è una percentuale minoritaria che effettivamente è molto interessata a questo tipo di discorsi, al punto da poi arrabbiarsi se poi non lo fai con regolarità, eccetera. Però c'è effettivamente una maggioranza di persone che dice io voglio trovare comunque qualcuno a cui delegare. Per cui questo istituto della delega, della democrazia rappresentativa, che è chiaramente in crisi, però è difficile ancora far capire alle persone che non è più un metodo accettabile. Quindi comunque le persone sono abituate a delegare e questo forse è uno dei problemi più grossi in tutto che abbiamo in Italia, cioè il fatto che, a differenza forse di paesi, adesso non so come fosse in Tunisia, però ci sono paesi dove poi le persone a un certo punto hanno preso in mano la situazione. Da noi questo ancora non si vede tanto, le persone aspettano che arrivi qualcuno e risolva il problema per loro. Grazie. Sono delle reti, dei social network, adesso lasciamo perdere Vendola, parliamolo con riferimento proprio alla creazione di figure emergenti anche, non so, dentro una comunità di fan di qualcosa, non necessariamente in senso politico, è perché qualcuno è più bravo degli altri a comunicare, a usare la parola, a usare il linguaggio. È quello. Però allora forse la leadership è più... No, perché la leadership è razionale. Cioè la leadership all'interno di un partito... Non necessariamente, però sì, produce Hitler allora tendenzialmente, produce e Mussolini e Berlusconi e ahimè forse qualcun altro, e vendo. Però se la politica, come dire, nelle sue forme tradizionali è sempre un miscuglio delle due, c'è anche un confronto sui programmi, sulle idee, sul punto di vista, eccetera. Assolutamente, assolutamente sì. Qui però, paradossalmente, proprio perché molto spesso il soggetto non è incarnato, per esempio il corpo, fra virgolette, è un aspetto fondamentale del rapporto carismatico, no? Cioè Lenin che sta in piedi con la bandiera rossa, che sventola, eccetera, eccetera. Qua passa tutto attraverso la parola, completamente. ed è fortemente suggestivo in generale, soprattutto se proprio perché i temi, quando entrano su un dibattito, su un confronto, non arrivano a un confronto razionale, si polarizzano. C'è la tendenza a convergere. La rete ha funzionato come momento di confronto esaustivo, fino ad arrivare, per esempio, a prendere decisioni non a colpi di maggioranza o minoranza. Nella fase rurale, i comitati degli ingegneri e degli sviluppatori di software open source che hanno creato la rete funzionavano invece con un confronto fino all'esaurimento, per arrivare a dire sì, questa è la soluzione migliore, siamo tutti d'accordo su questa cosa, o comunque la schiacciante maggioranza è d'accordo su questa cosa. Esatto. Questo però non è più così, cioè quando cominci a avere centinaia di migliaia di utenti, i dispositivi su cui si converge sono tutt'altro, insomma. No, invece la dimensione del mito è già messa in vari. Sì, invece, scusa, rapidissimo, un'altra questione che hai posto, che è fondamentale, è la questione della mobilitazione. Allora, la rete è un dispositivo formidabile di mobilitazione, su questo non ci sono dubbi. Le smart mobs, come le chiama Reingold, hanno fatto saltare il presidente delle Filippine molto prima di queste cose che sono successe in Corea. Cioè, no? Si coagula la mobilitazione via SMS in Spagna dopo gli attentati alla stazione Atocha, che ha fatto perdere le elezioni ad Aznar, no? Quindi ha una capacità di, non so, come di precipitare come una reazione chimica con una velocità mostruosa. Il punto debole, che secondo me già anche di queste insurrezioni in Nord Africa, o pensiamo alle mobilitazioni del popolo viola in Italia, è che non sedimenta organizzazione. Cioè, il giorno dopo è come se non fosse successo niente. Non ha creato delle reti che si incarnano in strutture sul territorio, cioè, da qui l'importanza che ci sia un rapporto, un radicamento. È vero che c'è questa transnazionalità, però per esempio una delle cose che funzionano, torniamo sempre a Bombavendola, in alcune di queste fabbriche di nicchie, che in realtà sono radicatissime nel territorio, cioè non sono comunità puramente virtuali, partono dal paesino, no? Poi tendono ad avere un... No, non è che voglio... No, scusa. Torno subito su questo punto. Prima volevo chiarire una cosa sulla balcanizzazione, nel senso che quello che secondo me rimane tuttora infondato è una dimostrazione che la rete abbia aumentato la balcanizzazione. Kassunstein descrive il suo timore che potrebbe forse aumentarla, ed è una pura esposizione qualitativa. Dice: il giornale generalista, l'editoriale è un po' più a destra, un po' più a sinistra, io leggendolo sono esposto a entrambe le opinioni, ma parte dal presupposto, secondo me ampiamente infondato, che lo legga tutto, che io mediti e non salti immediatamente, vedendo un certo editorialista non salti, non lo legga affatto. Quindi in realtà quello che mi piacerebbe trovare, anche empiricamente, non tanto negare la balcanizzazione che c'è, ma dimostrare che effettivamente ci sia stato questo cambiamento. Io ho forti dubbi che ci sia stato un cambiamento nelle modalità di relazione delle persone e nel confrontarsi con opinioni diverse dalle proprie. Invece, tornando al discorso politico, questo è uno degli aspetti positivi dell'articolo di Formenti, che mi sono tenuto in seconda battuta perché volevo prima criticarlo. Era proprio quando lui analizza il caso di Obama e dice giustamente: passata la campagna elettorale, in realtà l'articolo, se fosse stato scritto adesso, sarebbe ancora più critico, perché passata la campagna elettorale come si fa? E questo, però, visto che io tendo ad essere più ottimista, è uno degli aspetti in realtà che vedo più come una sfida straordinariamente interessante per una democrazia rappresentativa e deliberativa. Penso per esempio a Nadia Urbinati, quello che scrive quando parla del rappresentante che ha un contatto con i suoi elettori non soltanto al momento dell'elezione, ma per tutto il corso, e questo costante confronto, la rete, sia la rete, quindi online, ma sia il contatto anche fisico di persona, potrebbe essere uno strumento per realizzare una democrazia rappresentativa e deliberativa più ricca, più intensa. Ok, allora, prima cosa, giusto per alleggerire, a Pisa fortunatamente abbiamo dato la laurea honoris causa ai due padri di internet, Vincef e Bobka. Vincef comunque, che oggi è il chief evangelist di Google, vicepresidente di Google, che però insomma è la persona che obiettivamente sta anche cercando di dare proprio un'idea della realtà come è mutata dell'internet oggi, che lui chiama ecosistema internet. E quindi, allora, però il discorso fondamentale è qui si parla, internet è la parola chiave di tutta la chiacchiera che abbiamo fatto, ma internet è una infrastruttura di telecomunicazioni per trasmissione dati. Poi il resto, diciamo, dell'ecosistema che nasce dopo, però io, a difesa della struttura di trasmissione dati, posso dire che, siccome prima si parlava di ottimismo, pessimismo, la mardocchizzazione o roba di questo genere, ecco, la struttura di rete è solida, diciamo, anche se ci sono Z-Train che scrive, dove è, a Berkeley? Harvard, ok, che a un certo punto pone dei problemi proprio della crescita dimensionale, insomma, perché è chiaro che aumentando a miliardi il numero di utenti, la struttura deve essere capace di crescere, giusto appunto. E quindi c'è questo tipo di problemi. Però, diciamo, tutto il settore privato da una parte, poi anche i fornitori, insomma, il valore dell'internet è alla periferia, ci sono quelli che sostengono che tutto il valore della rete sono più gli utenti quasi che non diciamo i gestori dei sistemi centralizzati. E oggi ci sono certamente delle scommesse che vanno abbastanza a mettere, insomma, a duro prova la struttura di telecomunicazioni, però c'è un gruppo molto importante che gestisce l'evoluzione degli standard, e poi c'è un gruppo che si occupa delle architetture della rete. Oggi abbiamo l'IPv6, che sarebbe il nuovo sistema di indirizzamento dei numeri, perché quelli precedenti ormai non bastavano più. Abbiamo l'emergere dell'internet delle cose, abbiamo l'emergere del cloud computing. Ora io non entro in nessuno di questi dettagli, ma solo per dire che ci sono tante cose che certamente rendono complessa l'evoluzione del sistema. E poi c'è tutto il problema legato alla convergenza, cioè quindi convergenza dei media, dove a un certo punto telefoni, internet, televisione, internet, insomma. Quindi tutte queste cose qui sono scommesse che poi aumentano la complessità, perché la struttura della rete deve poter interagire con le altre organizzazioni, tipo l'ITU, tipo insomma quelli che si occupano di standard degli altri media che si fondono con internet. Però oggi si può affermare, impropriamente rispetto all'origine e al fatto che internet è la rete di reti, che a un certo punto ormai i contenuti sono diventati quasi più importanti, più visibili della infrastruttura stessa, e valgono anche di più. Però ecco, io volevo esprimere, anche da tecnico fra quelli che hanno cominciato l'internet in Italia, che sulla parte dell'evoluzione dell'infrastruttura possiamo stare relativamente tranquilli, cioè nel senso che sì, ci sarà un problema di parti dominanti nel mercato, ci sarà un problema di un certo tipo di regolamentazione, ma i cultori veri, quelli che hanno messo in piedi la rete, ci hanno un impegno tale da poter garantire che continuerà a funzionare anche quando invece di 2 miliardi saranno 4 miliardi di utenti. Il problema è che poi viene fuori è come a un certo punto in tutto questo i servizi che riguardano la gestione dei contenuti, vedi Google, col discorso che facevo prima, che insomma ha un valore enorme, e poi fa soldi con la pubblicità e quindi indirettamente eccetera eccetera, e questo è un e poi c'è un'altra cosa, cioè uno dei due inventori di internet, che sta curando l'ipotesi di sistemi di memorizzazione, diciamo, con tutta una struttura di database semantici, Bob Kahn, che a un certo punto deve arrivare a poter garantire che al di fuori del funzionamento delle macchine, con una struttura relazionale che indirizza tutte le informazioni, anche fra 2000 anni su macchine, calcolatori che saranno chissà come fatti, sarà possibile avere l'equivalente della biblioteca di Alessandria del XXI secolo, cioè tutta indirizzabile, tutta recuperabile indipendentemente dai mezzi di come ci si va ad accedere. Cioè, per dire, e questo è, quando si parlava di contenuti, un qualcosa che proietta molto in là, insomma, ecco, diciamo così. E quindi questo, diciamo, giusto per dare un elemento di qualche anche ottimismo pure in questa faccenda. Io volevo fare una serie, diciamo, quasi di battute. La prima: è vero che è cambiato molto, quasi tutto. Io oggi penso che il lavoro di chi fa protezione dei dati, garanti, è diventato difficilissimo. Quando lo facevo io, era, adesso posso dire, era difficile, però era una meraviglia. Che, per esempio, sul consenso, noi che cosa facevamo? Andavamo a vedere se tu, quando avevi mandato un messaggio a un certo signore, avevi acquisito preventivamente il consenso di questo signore. Adesso, il consenso nell'era di Facebook, che cos'è diventato? E infatti, non a caso, per cercare di offrire quel minimo, non dico di garanzia, ma di tranquillità psicologica all'utente, gli si dice: scegliti tu i livelli di tutela che vuoi per le tue informazioni. Ma questo complica il lavoro di tutti in una maniera enorme, anche perché poi il livello di garanzia, c'è un problema, è trasferito dal soggetto che in qualche modo dovrebbe garantire all'utente, e gli dice: peggio per te se. E quindi già questo complica enormemente le cose. Secondo, visto che sono stati indicati vari livelli, effettivamente, allora io racconto un'altra piccola storia. Un giorno io ho parlato con un importantissimo amministratore delegato che mi poneva tutta una serie di problemi, quello che facevano i dipendenti oppure no, e a un certo punto, con un po' un baccalà, gli dico: e certo, lì è preoccupato che poi i dipendenti vanno sui siti pornografici durante il lavoro. Lui mi fa: professore, ma come, se loro vanno un po', qualche minuto, sui siti pornografici, ma poi sì, e tornano al lavoro magnificamente. Sa qual è il problema? Quando vanno sui siti di borsa, se le informazioni, a quel punto la caduta della produttività, del lavoro, dell'attenzione è radicale. Ecco come, no, lo dico perché queste cose aiutano. Terzo, il Brasile. Tutte le volte che viene nominato il Brasile, da una parte dovrei essere contento perché io ho lavorato molto con questi signori, hanno addirittura tradotto tutta una serie di miei saggi, scusate l'autocitazione, ma perché? Però nel 2007, ci siamo ricordati con Stefano, nell'Internet Governance Forum di Rio, l'Italia aveva stipulato il primo protocollo internazionale in materia, protocollo Italia-Brasile, al quale stavano cominciando a chiedere, primo, che cambiò l'andamento dell'Internet Governance Forum per quello che era almeno formalmente l'atteggiamento del rappresentante delle Nazioni Unite, ma soprattutto aveva cominciato a interessare tutta una serie di stati di quell'area, e questo non è fatto di piccola rilevanza, per aderire a questo protocollo. Argentina, Messico, poi avevo saputo queste cose, è stato lasciato cadere. bisogna dire, è stato lasciato cadere prima dal governo di centrosinistra, e questo lo dobbiamo dire, e poi completamente esorcizzato dopo. Quindi lo dico con un po' di rammarico per quanto riguarda poi la possibilità di lavorare in questo Paese su alcune idee. Tre questioni. Io insisto sempre, esagerando, lo dico la verità, dopo aver detto cambia tutto, sugli elementi di continuità che dobbiamo tenere presenti. Il primo, più evidente, la mobilitazione si fa in rete, l'azione politica si fa in piazza. La mobilitazione che ha creato tanti problemi, per esempio tutto quello che in rete si è detto a sostegno, per esempio, dei blogger egiziani e prima tunisini, delle varie censure, tutto giustissimo perché lì è nato, però se non ci fosse stata quella piazza occupata stabilmente da centinaia di migliaia di persone, diciamo la battuta, Mubarak non cadeva. Questo ci dice che ci sono fattori, ma questo lo sappiamo dai tempi di Seattle, organizzati in rete, poi si arriva lì e se non si bloccava fisicamente l'ingresso nel centro congressi dei rappresentanti del WTO, niente. E poi perché? Perché questo viene trasmesso in tutto il mondo dal mezzo obsoleto, la televisione generalista. Questa è una storia che noi conosciamo, ma che dobbiamo avere un po' presente e che c'è riproposta dalla storia di WikiLeaks. Perché? Che è successo? Questo ce lo diciamo sempre. WikiLeaks si è fatta legittimare dalla stampa tradizionale e la stampa tradizionale è stata rilegittimata e si sta organizzando intorno ai modelli WikiLeaks, perché sappiamo che il New York Times si sta facendo il suo WikiLeaks dicendo mandatemi anonimamente queste cose, e la City University di New York ha creato questo cosiddetto local WikiLeaks, per cui raccoglie, sempre garantendo l'anonimato ai fornitori, le notizie che poi smista a 1400 quotidiani in tutti gli Stati Uniti. Quindi, di nuovo, qui c'è un gioco un po' più complicato di quello piazza, eccetera. Perché? Perché tra l'altro, e quel saggio di Bill Keller è straordinariamente eloquente, e se uno vede che potenza di fuoco ha messo in campo il New York Times per verificare le notizie, selezionarle, è impressionante ed è una lezione di deontologia. Io quello sto dicendo a quelli che fanno scuola di giornalismo, che devono tradurre quel saggio e imporne la lettura agli studenti, altro che... E però, che c'è che viene fuori? E proprio il rapporto tra spazi sterminati e spazi chiusi. Il giornale è uno spazio chiuso, perché sotto la testata del New York Times, è vero, c'è scritto tutte le notizie che meritano d'essere stampate, questo c'è scritto, ma questo vuol dire che io c'ho uno spazio ristretto, non solo che seleziono, ma non posso dare ogni giorno, anche se ci sono i mostruosi pacchi domenicali, ogni giorno 10.000 pagine, e quindi le devo ridurre ai 35, 50, 60. Quindi sono i professionisti della selezione della notizia, che è un problema che diventa in questo modo, a torto a ragione, veramente o falsificando di nuovo le cose, la legittimazione della notizia che mette in circolazione. Questo è un altro elemento di continuità. Poi va bene, poi Assange, io adesso veramente una domanda fatta a Carlo che ha insistito, questa è stata un'operazione giornalistica, benissimo, però io non mi accontento di questa definizione. A me è molto piaciuto il titolo che ha fatto subito il Guardian, dicendo la rivoluzione è cominciata e sarà digitale. È una enfatizzazione della cosa. Però rispetto alle modalità di distribuzione del potere che abbiamo avuto negli anni, soprattutto negli ultimi anni, e tu hai assolutamente ragione, mai concentrazione, monopolizzazione, finanziarizzazione esasperata, che incide poi sul funzionamento della rete, perché qual è la quota e la disponibilità per l'uso civile, qual è invece la quota e la disponibilità per altre cose, il supermercato, il luogo di operazioni finanziarie e via dicendo. E io mi domando, sinceramente, non ho subito una risposta, che qui c'è un segno di una, almeno di una possibile redistribuzione del potere. Questo mi sembra un punto da utilizzare, e questo per cui, certo che è un'operazione giornalistica, non si può enfatizzare e dargli dei segni e delle definizioni che vanno. Aggiungo poi, e questo io ci insisto nella mia testa sempre, che io l'ho scritto, lo dico, lo scandalo non è Wikileaks, ma è l'inadeguatezza delle culture di coloro i quali hanno costituito banche dati in questi anni. Ma queste banche dati, io lo racconto, ci sono alcuni che erano già stamattina in Cassazione, quindi mi sentono ripetere le stesse cose, ma dalla mattina alla sera non è che mi posso inventare un pensiero nuovo. Ecco. E poi è passato, 4 ore sono passate, non è che ci sia. No, ma il punto è che questa faccenda, e che cosa è venuto fuori? Che si sono usate tutte le possibili tecnologie per raccogliere, conservare, diffondere le informazioni. E dopodiché tu ti meravigli che dopo che hai creato il Siprinet, che il Pentagono dice che aveva accesso a questa rete, quella da cui viene il Cable Gate, 500.000 persone, altri l'hanno stimato in 2.5 milioni di persone. E in più c'è una funzionalità intima. Queste cose non funzionano se non sono accessibili e se non c'è connessione e condivisione. Quando, ripeto, dopo l'11 settembre, che cosa si disse? Noi avevamo tutte le informazioni che ci avrebbero consentito di fermare Mohammed Atta, ma non si parlavano le banche dati in materia di sicurezza. Io ho raccontato stamattina, lo ripeto perché è troppo divertente, io mi sono trovato nel marzo successivo all'11 settembre al Dipartimento, veramente eravamo al Department of Homeland Security, a negoziare, allora presiedevo il gruppo dei garanti europei, e era un confronto abbastanza duro con l'amministrazione americana, che voleva tutte le informazioni possibili a partire da una mostruosa lista riguardante il PNR, cioè i dati riguardanti i passeggeri delle linee. Mentre eravamo seduti lì, viene un signore che io conoscevo per vecchi traffici di protezione dati, un funzionario del Dipartimento di Stato, che mi dice: prima che te lo dicano gli altri, ti dico che il Dipartimento dei Trasporti 3 ore fa ha autorizzato la prosecuzione del corso di istruzione al volo di Mohammed Atta, che era morto l'11 settembre. Perché? Perché la richiesta di autorizzazione, che pure riguardava una materia molto sensibile, perché era richiesta di corsi di pilotaggio di stranieri, non si era, allora hanno mandato avanti la pratica e hanno mandato l'autorizzazione. Allora, qui c'è un problema evidentemente di culture, perché non solo questa è una falla, non è solo questo. Io ritengo che proprio il modo in cui si sono costruite queste raccolte di informazioni, che hanno accresciuto per certi versi la vulnerabilità, pur essendo rivolte al controllo, non c'è dubbio, però hanno fatto nascere e sedimentare l'idea che quello è un sapere sociale che poi la gente deve poter sfruttare nelle maniere più diverse. E l'idea che viene fuori dal fatto che la conoscenza in rete è un bene comune si trasferisce a queste situazioni. Questo, secondo me, è un altro dei criteri analitici. Non so fino a che punto può essere spinto, sinceramente, ma forse va tenuto presente. La storia della costituzionalizzazione È molto complicata, non ne voglio parlare perché diventa troppo lunga, però voglio dire una sola cosa. Giustamente Carlo ha ricordato che poi gli operai cinesi hanno cominciato a scioperare. E nello stesso tempo, nelle varie insurrezioni, io sono d'accordo con che sono insurrezioni, quelle che si verificano da un po' di tempo, dall'Iran alla Birmania, adesso, tutti quelli che col telefonino riprendono, mandano le immagini, mandano le notizie, rivendicano libertà, esercitano il diritto di informare, di essere informati, e poi le donne africane che si fanno frustare pur di scegliere liberamente il modo in cui vestirsi. Beh, questi della dichiarazione dei diritti dell'89 non sanno assolutamente niente, e quindi c'è un processo di produzione di dichiarazioni di diritti, se io così posso dire, che è completamente diversa dal passato e che mi sta facendo diventare molto diffidente e qualche volta perfino infastidito quando, parlando di diritti fondamentali, si dice: ah, però questo è un modo dell'Occidente di colonizzare. Qui non c'è nessuna colonizzazione, ma c'è invece un'idea dei diritti fondamentali legata alla vita materiale delle persone che produce poi istituzionalizzazione, che non è l'istituzionalizzazione tradizionale. Per cui quando si parla di un Internet Bill of Rights per quanto riguarda Internet, non è nessuno dei processi di costituzionalizzazione che abbiamo conosciuto. Ultima questione, la polarizzazione. È vero, poi la verità è che la polarizzazione in questo senso c'era anche prima, che non è che le persone andavano dal giornalaio e compravano tre giornali, compravano il giornale che gli dava le informazioni che volevano, che gli consentivano l'identificazione, che gli consentivano poi di trovare il gruppo all'interno del quale si collocavano. Questa è una semplificazione orrenda, però in qualche modo ci pone un problema, perché la balcanizzazione è una vicenda che nasce come riflessione con il web 2.0, con le reti sociali. Allora, la riflessione ovvia qual è? Che i media tradizionali inducevano passività, ovviamente, ma creavano uno spazio comune, per cui poi la mattina tutti andavano e dicevano: hai visto ieri sera questa cosa? E c'era questa sorta di spazio, non di sfera pubblica, di spazio pubblico che era in qualche modo innervato da tutto questo. Adesso ci sono tanti problemi, e non ultimo o per primo, si è detto tante volte che Internet era la forma del populismo moderno, non c'è niente da dire di personalizzazione, ma poi ci sono le questioni legate alla mobilitazione, a tutte le cose che sono già state dette, che poi non necessariamente producono organizzazione, sedimentazione, quindi sfera politica articolata. E la difficoltà poi alla disintermediazione, perché poi l'idea di delega è anche in qualche misura compresa nell'idea che io devo stare in una comunità. Io, rispetto a tutte le logiche comunitarie, devo confessare che sono sempre molto diffidente. Sono pure diffidente rispetto alle logiche identitarie, che sono ancora più terribili, ai libri di Remotti contro l'identità, e l'ossessione identitaria dovrebbe essere un breviario. Però è vero che ci sono questi processi che noi dobbiamo prendere seriamente in considerazione. Per tornare a Obama, a parte tutto quello che è stato detto, che è verissimo, e anche alle prime, a quando ancora era molto vitale la sfera, la blog sfera, che diceva: ma adesso Obama non ci dà più retta, ci fu quello che scrisse. Beh, io diffiderei molto di un presidente degli Stati Uniti che leggesse tutti i giorni le sciocchezze che noi gli mandiamo, perché c'è poi, a un certo punto c'è il problema della politica, però c'è anche un'altra cosa, e poi su questo tutto sommato chiudo con una richiesta di E cioè, io sono stato molto colpito dalla discussione che veniva fuori dicendo che cosa sta producendo tutto questo, che poi, di nuovo elemento di continuità come dicevo prima, prima ci si incontra in rete e poi la campagna di Obama, ma già quella passata di Howard Dean aveva avuto queste cose, ci si vede fisicamente, perché e si va a casa di Tizio nel cybercafé. Che cosa mi ha ricordato? Quando io ho fatto la mia prima campagna elettorale ho sentito una formula dopo pochi giorni: stasera dobbiamo fare il caseggiato. Che cos'era? C'era qualcuno che ospitava a casa propria un certo numero di persone e tu andavi a parlare con loro. Cioè ci sono meccanismi che non sono la ripetizione del passato, ma che ci mostrano almeno un punto di vista. La domanda che faccio poi, perché adesso lasciamo, è questa. Io sono assolutamente d'accordo che dobbiamo guardare con più attenzione a quelle che sono, sia pure coi limiti che conosciamo, tutte queste forme di mobilitazione. Capire come possono, se diventare organizzazione politica, incidere effettivamente sulla costruzione dell'agenda, ma non durante la campagna elettorale. Howard Dean era di un cinismo assoluto quando gli chiesero l'intervistatore di Wired, e poi se le sue politiche sono criticate da coloro i quali sono in rete, io le cambio, rispose molto senza mezzi termini. Questo si può fare durante la campagna elettorale, ma dopo non è più possibile. E allora il problema della rete è quella di come contribuisce a costruire l'agenda politica dopo. Questa è una grande questione. E allora la mia domanda è di nuovo un intreccio di vecchio e nuovo. Nel Trattato di Lisbona c'è un articolo, democrazia rappresentativa, e dopo democrazia partecipativa. All'interno di questo articolo, adesso a parte tutte le altre considerazioni, si dice che 500.000 cittadini appartenenti a diversi paesi dell'Unione possono proporre una petizione alla Commissione, cioè invitare, cioè possono dire alla Commissione, nelle materie di competenza comunitaria ovviamente, di mettere all'ordine del giorno un problema. E questo è un modo per costruire. Dov'è il problema? Se tu adoperi i criteri che noi abbiamo, per esempio quelli per raccogliere le firme del referendum, questo non lo attiverai mai, perché hai bisogno di usare la rete per fare queste cose, perché 500.000 firme sono tante, perché farlo contemporaneamente in paesi diversi, figuriamoci che cosa succede con le discipline nazionali che legittimano la raccolta delle firme, c'è un problema di tradurre questo nella dimensione elettronica. Ci sono tante persone che ci stanno lavorando, ma questo secondo me sarà un passaggio molto importante, che se sarà risolto questo che sembra un problema tecnico regolamentare, si apre una possibilità, io dico, di contribuire alla costruzione dell'agenda, che poi, soprattutto se questo sarà, come sembra possibile, uno stimolo al Parlamento, che qualche europeo, che qualche potere in più se l'è trovato tra le mani dopo il Trattato di Lisbona, beh, le dinamiche europee, che poi sarebbero legate a, all'iniziativa dei cittadini, b, sostanzialmente ai diritti fondamentali, beh, io poi provo sempre a tirare fuori, dopo aver fatto la mia parte non apocalittica, ma giustamente critica, come dice Carlo, a vedere quali sono le opportunità. Altri, perché io non è che avevo da concludere niente, però vedo, prego. Che poi di verifica dopo, cioè queste sono cose veramente, perché molti non lo vogliono, Grazie. Ormai votare solo così. È bello, cioè, singolare in questo momento. Io direi di fare molta attenzione anche al costituzionalismo che viene da quei paesi. Io proporrei che in un prossimo meeting lo dedichiamo a i democracy. E allora ce ne sarebbe data. Io ero ancora in Parlamento, figuriamoci quando ci fu un'enorme pressione, ovviamente, di chi, delle imprese, dovevano vendere queste cose. E io sono stato forse allora un conservatore pericoloso, ho fatto molto muro contro questa cosa, quindi era oggetto di grande, no, ma questo parlando di un secolo fa, adesso ci potrebbero essere molte altre aperture, ci si deve molto lavorare. Io in questo momento in Italia sarei un po' cauto per molte ragioni, per moltissime ragioni, però su questo è inevitabile. Cioè, le procedure di sicurezza, diciamo, da un punto di vista della rete sono forti. E se voi avete seguito Sanremo, quando a un certo punto dicono quella assurda warning, l'avvertenza che per i voti che vengono così, siccome costano coi telefonini tot, quindi ipotizzando già delle, per il festival di Sanremo, figuriamoci le elezioni politiche. Dico, per cui un'altra continuità è la storia della legge Bavaglio, perché noi ce la siamo un po' inventata questa cosa, ma se non ci fosse stato poi, come dire, la sponda di un grande giornale, questa cosa non mica non ce li scordavamo. Questo si porta. tanto le email ce l'abbiamo.